cerca l'energia, tu cerca l'energia! Che a guidarti sia energia, è chimico elettronica e energia, sostanza viscerale a puro istinto musicale. Se prima non la vedi, la forza è l'energia. Se prima non la vedi, la forza è energia. La forza è energia. Tu cerca l'energia. La forza è energia. La forza.